Autopsia. Ora di nascita 11:30. Ore 13. Visita. Tavolato d'acciaio inossidabile, corpo nudo, lunghezza 50 cm. Pelle singolarmente pallida, massa muscolare nella norma, massa adiposa influente, età anagrafica neonato. Professore assistente attrezzista bisturi, luce diretta, moto circolare. Silenzio. Calotta cranica, cervello, collo simmetrico, regione toracica, addome piano, arti superiori, bisturi, arti inferiori, sezionamento. Ogni dettaglio, corpo inventariato. Capelli, neri, occhi, camicia, naso, pancia, gambe, ombelico, piccolo sesso maschile, niente calze, silenzio. Collo. Nulla ai piani sottocutanei, fasciale e muscolare, faringe con mucosa indenne da lesioni, esofago perfido. Torace. Nulla ai piani superficiali, cuore di normale conformazione, superficie liscia e lucente, miocardio di consistenza normale e di colore rosso, sangue fluido, nessuna anomalia evidente. Aorta toracica indenne, impalcatura scheletrica sottostante indenne. Polmoni di volume aumentato, forse è paura. Addome. Organi addominali nella loro posizione fisiologica. Stomaco. Intestino normale. Fegato normale. Pancreas normale. Normale struttura ghiandolare. Reni normali. Vescica normale. Nessuna alterazione. Nessuna alterazione. Null'altro di rilevante. A parte non ci sono i piedi. Non ci sono i piedi. Lavato e ripulito, largo e filo, il dottore disse: non ci sono i piedi. Il bambino non camminerà perché i piedi non ci sono, qualcuno li ha tagliati. Ma non piange, non si lamenta. Allora forse è pigrizia, allora forse camminerà. Sembra un bravo bambino, solo un po' triste. Deve essere pigro, sarà quello il motivo. Come si chiama? Respiro. Claudio. Claudio. Respiro. Professore assistente attrezzista, bisturi, luce diretta, moto circolare, Claudio. Dal nome in latino Claudius, tratto dall'aggettivo Claudus, significa letteralmente claudicante, soffo, non ci sono i piedi. Causa. Infermità arteria femorale, lesioni craniche meningoencefalitiche e toraciche, frammenti metallici di panca esplosa. Materiale plastico male assorbito, infarto per terrore, tranquillanti, sonniferi, ansiolitici, droghe di cui i giovani d'oggi fanno spesso uso, proiettile singolo sparato da una camionetta, proiettile vagante a 40 cm, morto. Malformazione congenita non dovuta al napalm, cardiopatia congenita dovuta al napalm, sindrome di Hilbert, sindrome di Asperger, sindrome di Turner, bomba carta di chiara matrice rossa, depressione cronica, vita violenta, patologie da intellettuale, sanpietrini, epatite, ictus, sfortuna, separazione dei genitori, esplosioni di un impianto, deragliamento, omosessualità, incidente sul lavoro, servizi segreti, missili, Cossiga, controcultura, linea dura, carro armati, mezzi cingolati, sassi. Considerazioni. Ipotesi contrastanti. E identificazione causa non facile. Non facile da stabilire, dubbi, tracce vaghe o insicure, incertezza, caso, nessun sospetto. Si avranno maggiori elementi di valutazione al settimo grado di giudizio, dopo attenta e oculata ricerca e studio degli atti, resi pubblici dopo minimo anni 10 o 30 o 300, come in altri casi noti quali Piazza Fontana, omicidio Moro, stazione di Bologna. Inutile dilungarsi su prove indiziali, le indagini seguiranno tutte le direzioni. Non si tralascerà nulla, né a destra né a sinistra. Non c'è fretta. D'altra parte, i morti sono morti e di nuovo non possono morire. Non c'è fretta. E i piedi tagliati difficilmente ricrescono. non c'è fretta. In conclusione, ci rimettiamo al giudizio universale e alla notte dei tempi, quando per tutti ci sarà verità, la verità e la giustizia. L'unica variante che ad oggi possiamo affermare con certezza è che Claudio è Claudio di nome e di fatto, Claudio lo Zotto, figlio di Saturno, come il mito ci rende noto, era un dio che mangiava i suoi figli, e i nomi si sa, tracciano i destini. Ore 14, il signor Saturno appone la sua firma a questo atto di nascita. Testamento. Io lascio a mio figlio una storia che non ricorda. Lascio a mio figlio una foto dove insella una bicicletta troppo grande per lui. Ed io lo tengo forte con due mani. Lo tengo forte, io. Così, insella una bicicletta. Non preoccuparti, non ti lascio. Non preoccuparti, ti tengo forte. Non preoccuparti di cadere, ci sono io, non preoccuparti. Tu sei il bambino che ha il posto dei piedi alle ruote. Io lascio a mio figlio questa foto che non ricorda. Lascio a mio figlio una ruota di bicicletta. Lascio a mio figlio una strada che non ho percorso. Io lascio a mio figlio il presente che non conosco. Lascio a mio figlio la storia di un figlio dai piedi mancati e di un padre che li aveva divorati. La storia di Saturno e di Claudio. Un mito dimenticato, che è falso, finito, fasullo e abbandonato. Lascio un paese che non ho trovato. Io lascio un ricordo che non ho raccontato e il coraggio che non mi hanno dato. Lascio quello che non ho visto. A lui lascio la notte dei tempi e la verità. A lui lascio il nulla e tutto insieme. A lui lascio quello che non avevo. A lui lascio i nomi che non ho nominato. Lascio le notti di paura e gli svegli e i commiati. Lascio i giorni senza le date, gli incubi, i sogni, i regali mai dati. Lascio quello che non ho fatto e che non ho detto. A lui lascio i piedi che ho divorato, le domande che non ho ascoltato, le risposte che non ho trovato, le persone che non ho incontrato, gli enigmi che non ho risolto, le menzogne, le sciocchezze, gli intrighi, i misteri, i documenti nascosti, le volontà occultate, le trame segrete. A lui lascio chi mente, chi trama, chi intriga, chi si nasconde, chi urla, chi canta, chi non sa perdonare. A lui lascio un nome da riscattare. Claudio lo Zotto, Claudio l'incerto, Claudio che inciampa, che non sa camminare. A Claudio lascio tutta la mia fortuna, la mia ricchezza da diseredato, i miei palazzi senza le mura, i miei soldati senza armatura, le mie armi senza munizioni, le mie grida senza volume. A lui lascio tutto, tutto io. Lascio. A patto che mi sia data buona sepoltura, uno spazio integro in questo campo minato, un lembo di prato mai calpestato, una riva, una sponda, una terra segreta, una cima, una vetta, un silenzio senza parole. A Claudio, io lascio quel niente che ho, a patto che lo seppellisca con me.